A bordo campo di Dario Ricci. Allora, questa mattina ho corso per un'ora, ma adesso mi sento un po' in colpa, visto l'ospite davvero particolare che abbiamo oggi a bordo campo qui a Radio 24. Dean Karnazes è il più grande ultramaratoneta del mondo, tanto per citare una sua impresa, 50 maratone in 50 giorni in 50 stati americani. Dean... Banale forse chiederti come è iniziato tutto questo. I started with tequila. I did not like my life. I was drinking and I said no more and I go run. I run 30 miles without running and said from now on I'll be a runner. And that's how I started. In realtà tutto è cominciato con la tequila, nel senso che era un periodo della vita in cui non ero assolutamente soddisfatto di me, bevevo e mi sono detto no, questa non è la vita che voglio fare, e allora ho cominciato a correre. Quella sera ho corso 30 miglia senza fermarmi e da lì è cominciato tutto. Beh, anch'io bevo ogni tanto un bicchiere di vino e ancora non mi ha fatto lo stesso effetto. The same effect as it had with you. Let's try. Bisogna provare in realtà. Ecco, da lì è iniziato un percorso che ti ha portato a correre non solo per amore della corsa, ma soprattutto per testimoniare tante altre cose. Qual è l'obiettivo del tuo correre? I think a true champion, the measure is if they can use their talents, their gifts to motivate others to be healthier. And my mission is a global mission to promote healthy living as good for you, and it makes you feel better and happier. Io in realtà credo che la misura del vero atleta sia un atleta che è in grado di utilizzare i propri talenti, i propri doni per essere da motivazione per gli altri, per essere da esempio a condurre una vita più sana. Io, la mia, in qualche modo potrebbe essere definita una missione globale a livello mondiale proprio per ispirare uno stile di vita più sano, perché questo porta alla felicità, una vita più felice. Ecco, raccontaci un po' la tua giornata tipo, perché noi tutti che abbiamo la passione della corsa proviamo a organizzarci con la nostra colazione, con il nostro pranzetto, ma credo che per fare quello che riesci a far tu ci sia un progetto ben costruito. I follow a strict diet, the zone diet, and it helps with energy throughout the day, so no sugar, no flour. You know, pasta. And every day I make a commitment to exercise twice. And you don't have to run 50 marathons in 50 days. Just walk around the block, be active, and you'll be happier. In realtà io seguo un'alimentazione, la seguo abbastanza rigidamente, seguo l'alimentazione zona. Perché? Perché mi aiuta fondamentalmente a trovare energia, a trovare forza. E per far questo elimino comunque gli zuccheri, elimino la farina bianca, pasta, poca roba. E poi ogni giorno mi impegno un impegno ad allenarmi, correre due volte. Però sia chiaro, non è necessario fare 50 maratone 50 volte al giorno, è sufficiente cominciare a muoversi, a camminare, magari incominciare con il giro dell'isolato. So che ad esempio tu non usi l'ascensore, no? Never. Mai, never. Mai. Quindi anche le nostre scale mobili in metropolitana vengono bandite. I always run. I do not have an automobile. I just run. Non ho neanche la macchina, vado sempre di corsa. Bene, almeno così neanche inquini. No, I'm good all around. Sì, assolutamente buono, a 360 gradi sono. Beh, insomma, una serie di comportamenti che rimandano anche ad un approccio diverso con la modernità e anche con quello che sono i comportamenti più diffusi. So che sei molto impegnato sul campo, anche in America, nell'educare i giovani ad una sana alimentazione, ad un corretto approccio con l'attività sportiva. We have a terrible problem in America with childhood obesity, and Italy, unfortunately, is facing the same problems. And I think that my children eat healthy and exercise because I do. I cannot tell young children, you must exercise, then they will not. So I try to be a good example, a good role model for them. If they want to exercise and encourage them, yeah. In realtà negli Stati Uniti abbiamo un problema enorme, che è quello dell'obesità infantile, che purtroppo però so essere un problema che è cominciato ad avere anche qui in Italia, anzi, e io ritengo che ad esempio i miei figli mangino bene, facciano attività fisica perché vedono me farlo, quindi io cerco di essere un esempio per loro, perché non puoi ordinare a un figlio, a un ragazzo giovane di fare delle cose, devi essere un esempio, un modello di ruolo, altrimenti non riuscirai a ispirarli e a motivarli. Hai paura che un esempio così significativo di queste prestazioni così clamorose possa invece allontanare dallo sport? Qualcuno possa in qualche modo rifiutare? I don't experience that. I experience people saying, look what he can do. If he can do all that, I can do a little, poquito. And that's what I hear more than intimidate. I'm not intimidated. I'm just a man, just like you. Yeah. Io non ho questo tipo di esperienza, io invece sento e vedo persone che dicono guarda quanta roba riesce a fare lui, se lui riesce a fare tutto questo io magari posso fare poco, qualcosina, ma qualcosina lo posso fare. Non credo di intimidire e di suscitare una sorta di timore reverenziale, io credo che semplicemente sono normale come lei, come sei tu. My body fat is only 3.5%, but other than that, we are the same. Io ho una percentuale di massa grassa che è solo dello 3.5%, ma a parte questo, per il resto siamo uguali. Ecco, sì, proprio per il resto, diciamo così. Yeah, for the rest we are the same. For the rest, okay. Yeah. So anche che, appunto, tornando all'alimentazione, tu fai delle scelte molto precise, molto rigorose. Puoi spiegarci? Yes, I do not have the three whites. No white sugar, no white flour, so no refined pasta, no. And no hydrogenated fat, solid butter fat, only olive oil. And omega-3 fatty acids, which are very important for the joints, because I want my joints to be healthy and my head. And that's my diet. Posso dire intanto che dalla mia dieta io cerco di eliminare quelli che chiamo i tre bianchi, perché sono tre cibi bianchi, sono la farina raffinata, lo zucchero bianco e i grassi idrogenati, fondamentalmente i grassi solidi, quindi il burro. Utilizzo soltanto l'olio d'oliva e poi soprattutto tanti omega 3 RX, che fanno tanto bene per le articolazioni, per la salute, e mi aiutano a recuperare molto. So che il tuo impegno in questo campo ti ha portato anche alla Casa Bianca, ad essere chiamato dalla First Lady Michelle Obama e dal Presidente. Com'è stato il vostro incontro e quali azioni avete pianificato e studiato insieme per lavorare insieme su questi temi? Michelle Obama has the same mission, and that is to help younger people live healthy. They are our future. The world depends on the young people, and right now it's not very encouraging. So both Michelle and myself have many activities planned to get kids to be active. Michelle Obama ed io condividiamo la stessa missione, che è quella di aiutare i giovani ad essere più sani. I giovani sono il nostro futuro. Il mondo dipende dai giovani e se le cose vanno avanti così, in effetti la situazione non è incoraggiante al massimo. Per questo Michelle Obama e io abbiamo pianificato degli interventi per aiutare i ragazzi ad essere più attivi. I am not so naive to think that everyone will love to run. Not everyone loves to run. Some people hate to run. But I encourage them to find an activity they love and do that activity. perché in realtà non è che sia così ingenuo da pensare che tutti poi verranno a correre, che tutti ameranno correre, perché qualcosa, insomma, ad alcuni correre non piace proprio per niente. Il problema è cercare di incoraggiare questi ragazzi comunque a trovare un'attività che a loro piaccia per essere attivi, per fare attività fisica. Col basket come sei messo? Perché il presidente Obama potrebbe chiederti, portandoti sul campo lui più favorevole, di giocare a pallacanestro. I might be able to beat him, but even so I would let him win. Magari riuscirei anche a batterlo perché so giocare, però lo faccio vincere. Eh sì, tutto sommato siamo già in campagna elettorale. Tornando agli incontri che fai con le persone come motivatore, cosa ti chiedono più di frequente? Cosa, i suggerimenti, i consigli? How do I start? How do I begin? And I say to begin from the ground up with good shoes. Purchase good shoes. Intanto come si può incominciare? E io dico che bisogna incominciare proprio dalla base, incominciando pian pianino e con delle buone scarpe. Incominciare a comprare delle buone scarpe. And that will achieve two things. Good shoes are very expensive and they will feel good when you work out. Intanto sono due cose da dire, che le scarpe buone per correre sono anche costose, ti fanno sentire bene quando ti alleni. And the second thing is that you will feel very guilty if you spend all this money on good shoes and you don't use them. E la seconda cosa è che ti senti un sacco in colpa se spendi un sacco di soldi appunto nelle scarpe e poi non le sfrutti. Progetti per il futuro, perché so che stai studiando un altro grande progetto che ti impegnerà veramente in tutto il mondo. My dream is to run a marathon in every country of the world in one year. And there are 205 countries. So next year I will leave on a global trip to run a marathon in all 205. È il mio sogno che dovrebbe realizzarsi quest'altr'anno, quello di correre una maratona in tutti gli stati del mondo. Sono 205. Dovrei partire l'anno prossimo anno, appunto, in questo viaggio mondiale, una maratona per ogni paese, entro un anno farli tutti. Beh, ci sono più di 100 giorni di riposo, non è che ti stai impigrendo. I have, yes, I'm becoming lazy and fat. Grassone spigaro, dice. Ti chiedo ancora, dietro ogni grande uomo c'è sempre una grande donna. Tua moglie che dice? She thinks I'm crazy. Pensa che sono pazzo in realtà. Sappiamo come hai iniziato, ci potrà mai essere in futuro un motivo per farti smettere di correre? When I die. La morte, quando muoio sì, mi fermo. Yes. Dean, manca veramente poco alla Maratona di Milano. Qualche consiglio per gli appassionati che si cimenteranno anche nelle staffette benefiche? Qualche suggerimento d'autore? I think they should register today. Because if you have a goal in front of you, you cannot be lazy because you think in your head, oh, I must train. Intanto consiglio a tutti di iscriversi, perché appena uno fa questo, ha un obiettivo in mente, incomincia ad allenarsi e si sente in dovere di allenarsi. And the Milan Marathon is terrific, wonderful, because you don't have to run 42 kilometers by yourself. You can run with a team. And you just run as four people 10 kilometers. So very approachable. E inoltre la maratona di Milano è assolutamente avvicinabile, fattibilissima, perché, ed è straordinaria da questo punto di vista, perché non è necessario che uno faccia per forza i 42 chilometri da solo, la può correre in una staffetta composta da quattro corridori, per cui si fanno 10 chilometri a testa. A bordo campo. Parliamo di maratona oggi a bordo campo perché lo abbiamo sentito di Incarnazis, il grande ultramaratoneta americano che ci ha dato tanti consigli utili per avvicinarci ai 42 chilometri e 195 metri, ma fra pochi giorni sarà tempo di Maratona di Milano e allora proprio di questa maratona parliamo, con un po' di consigli utili per chi va ad affrontarla con già un po' di esperienza alle spalle. Allora, subito buongiorno e ben trovato al nostro primo ospite Emilio Tirelli, direttore didattico di Ecolife di Milano, scuola di formazione per massaggiatori professionisti che avrà proprio il compito di prendersi cura dei muscoli degli atleti e degli appassionati che parteciperanno alla prossima maratona di Milano. Benvenuto Emilio. Buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti. Allora Emilio, subito qualche consiglio per i maratoneti esperti che affronteranno questa maratona di Milano. Che tipo di maratona è e come si prepara? Sicuramente andare a verificare la temperatura per integrare con liquidi quello che può essere appunto la perdita legata al clima molto caldo, e poi sicuramente un lavoro muscolare costante, di stimolo muscolare non profondo, non intenso, ma che consenta al muscolo di rispondere in maniera adeguata alle sollecitazioni in una gara di questo tipo. Insomma, anche qualche bel massaggio sicuramente non fa male, anzi, dal punto di vista alimentare, qualche suggerimento utile? Il classico consiglio di utilizzare carboidrati nelle ore precedenti la gara, ma anche alla mattina, un 3-4 ore prima, quindi prima che inizi la fase di digestione, è sicuramente consigliato. Meno consigliato invece, ma i più esperti già lo sanno, di utilizzare zuccheri raffinati, perché il loro contributo ovviamente è un contributo limitato che non consente di avere energia a disposizione per lungo tempo, quindi il rischio di partire con una gran foga e poi di non arrivare alla fine. Siccome la fine in una maratona è abbastanza distante, sicuramente l'utilizzo di zuccheri alternativi come il maltosio possono essere più adeguati rispetto agli zuccheri raffinati che non forniscono le energie adeguate per una competizione di questo tipo. Tante anche le donne, tante anche le maratonete al via della maratona di Milano possono avere problemi specifici, e se sì, quali le soluzioni? Ma diciamo che lo sforzo muscolare è pari negli uomini e nelle donne, quindi questo non cambia granché. Uno svantaggio delle donne è quello della loro tendenza a perdere anche più liquidi rispetto agli uomini, quindi sicuramente per le donne che non lo fanno in maniera professionale e che magari non sono abituate a correre su questa distanza, ovviamente diventa motivo di preoccupazione e di osservazione particolare evitare, o se no stare molto attenti nel correre quando si è nel periodo mestruale, perché ovviamente già i liquidi che si perdono sono molti, nelle donne spesso di più che negli uomini, e in quel periodo ovviamente la perdita è ancora più accesa, poi si perde sangue che in tutti i sensi è forza, per cui è sicuramente una cosa a cui porre attenzione. Grazie Emilio Tirelli, direttore didattico di Ecolife di Milano, per essere stato nostro ospite qui a Bordo Campo, e buona maratona di Milano a questo punto. Grazie a voi, buona maratona a tutti. Un altro ospite ci ha raggiunto qui a Bordo Campo, abbiamo sentito i consigli per i maratoneti esperti che si cimenteranno nella maratona di Milano, ma in tanti scelgono proprio Milano per il loro esordio sui 42 km e 195 metri. E proprio a questi vogliamo parlare con un ospite d'eccezione, Marco Marchei, due Olimpiadi in maglia azzurra, Mosca 1980 e Los Angeles 1984 sulla maratona, e oggi direttore di Runners World. Benvenuto Marco a Radio 24 e a Bordo Campo. Grazie a voi per l'invito. Marco, allora, molti neofiti che scelgono proprio Milano per esordire sulla distanza della maratona, direi un percorso adatto a questo esordio, perché si presta particolarmente a chi si cimenta per la prima volta nella maratona, vero? Decisamente, perché è un percorso totalmente pianeggiante e hanno addirittura smussato anche quei mini cavalcavia, non che li abbiano limati, ma li hanno eliminati, che potevano in qualche maniera mettere in difficoltà i maratoneti, e soprattutto un percorso che ha un fondo stradale direi molto decisamente omogeneo, quindi assolutamente scorrevole. Consigli per chi va all'esordio a Milano: spesso ti frega l'attesa in una maratona più che la gara, che già non è poco, bisogna gestire bene i momenti prima della partenza. È vero, non bisogna lasciarsi prendere dall'attenzione e non bruciare troppe energie nell'attesa. Credo che la cosa più importante, l'obiettivo fondamentale da porsi se si ha la prima maratona, visto che, come dicevamo, Milano ben si propone, è quello di imporsi di arrivare fino in fondo, o meglio, mettersi in condizione di portare a termine la gara. Questo sarà poi anche un ottimo viatico per affrontare altre maratone successivamente. Insomma, non che se andrà male si chiuderà definitivamente il discorso dei 42 km. Ma certo, tagliare il traguardo e alzare il pugno al cielo è già una buona prima. Quindi, io credo che poi per per poter arrivare in fondo a questo obiettivo ci sia un consiglio fondamentale che è quello di non cambiare abitudini. E allora consiglio da seguire, così come da seguire anche l'iniziativa di chi sceglie di fare la maratona in staffetta, no? Una peculiarità di Milano rispetto a tante altre gare anche in Italia. Come la valuti tu questa iniziativa? Ma io la valuto benissimo, vedi Dario, molti pensano, continuano a pensare che sia fondamentale per una maratona avere al termine della giornata un certo numero di classificati. Certo, è importante arrivare a 5, 7, 8, 10, 15, 40.000 o più come succede, 40.000 concorrenti classificati come succede nelle grandissime maratone internazionali, però io credo che Milano avesse necessità in questi anni di riconciliarsi un po' con la corsa. La Stramilano era già in ottima posizione, chi non ha corso una Stramilano a Milano? La maratona di Milano invece era vista in qualche maniera come una sorta di invasione di campo, perché arrivava gente da fuori, non era proprio per il milanese. La staffetta, la forma della staffetta ha messo in condizioni di, addirittura si parla di 8.000 staffettisti quest'anno, ha messo in condizioni anche chi non aveva nessuna intenzione di dedicarsi alla maratona, di affrontare il percorso in una parte, magari solo in una parte, ma di poterlo fare, e soprattutto questo ha portato molta gente ad aggregarsi. C'è poi il discorso della charity, cioè della beneficenza, anche quella importante. Milano io credo che abbia trovato un po' la quadratura del cerchio, io credo che l'importante sia quello sia aver vissuto una festa, così come è già stato qualche settimana fa con la Stramilano. E allora davvero una buona maratona a tutti i maratoneti che prenderanno parte alla corsa di Milano, e anche a Marco Marchè, direttore di Runners World, nostro graditissimo ospite oggi qui a Radio 24 a Bordo Campo. Un caro saluto a tutti quanti, e come si dice per radio, in culo alla balena? Ma sì, si può dire, dai, sdoganiamolo. Allora in culo alla balena a tutti. E allora ultimo tratto di questa puntata di A Bordo Campo, completamente dedicata alla maratona e anche e soprattutto alla maratona di Milano, che ormai è ai nastri di partenza. C'è un'altra categoria importante che merita di avere i consigli di un esperto, cioè i tanti maratoneti over 60, perché sono veramente tanti, che prenderanno il via a Milano. E allora nostro ospite Orlando Giuliano, prima firma della Gazzetta dello Sport, soprattutto per il pugilato, ma anche grande appassionato di maratona. Pensate, 74 anni, 36 maratone corse in tutto il mondo. Beh, complimenti, Orlando. Grazie, intanto saluto gli ascoltatori di Radio 24, anzi li incito a trovare sempre nuovi amici che ascoltino questa simpaticissima radio. Grazie, troppo buono Orlando, ti conosciamo come a tutt'oggi grande appassionato e praticante di corsa. Qualche consiglio utile per gli over 60 che saranno al via della maratona di Milano, come interpretare a quella età una corsa così difficile? Ma guarda, la maratona sicuramente, pur avendone fatte un certo numero, io l'ho sempre rispettata, perché la maratona sostengo che non la inventi. Devo dire che ormai fra i 60 e i 70 ci sono fior di campioni che fanno dei tempi incredibili. Io stesso nel 2005 sono riuscito a correrla in 3:25 qualche spicciolo, arrivando primo, questo devo dirlo perché è una delle cose che più mi inorgogliscono. Il consiglio principale è questo: sapersi ascoltare, cioè ognuno ha la propria cilindrata, ognuno sa come e quanto si è preparato. Per cui chiedere troppo, specialmente la maratona, è veramente, diciamo, un suicidio. Bisogna capire e valutare quanto il tuo corpo ti può dare. Se ti alleni bene puoi fare dei tempi ancora ottimi, se hai una preparazione sommaria devi capire che i 42 chilometri sono un giudice che non ammette errori. Comunque, quando arrivi al traguardo, qualunque tempo hai fatto, è una grande soddisfazione. C'è anche un piano B eventualmente, no? Quello di prendere parte a una staffetta. In molti casi c'è anche la possibilità di farlo con scopo beneficenza. Direi un'iniziativa riuscita. Tu che hai corso tanto in tutto il mondo, ti piace questa idea di Milano? No, non solo mi è entusiasmato, difatti io l'anno scorso, per motivi un po' che ero non troppo preparato, ho fatto la staffetta all'ultima frazione e ti devo confessare che mi sono divertito moltissimo. Rappresenta l'alternativa